Le ore della passione di Nostro Signore Gesù Cristo, scritte da Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà. Quarta ora, dalle 8 alle 9 della sera. Cena eucaristica, preghiera di preparazione. O Signore mio Gesù Cristo, prostrata alla Tua Divina Presenza, supplico l'amorosissimo Tuo cuore che voglia mettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore, in cui per nostro amore tanto volesti patire nel corpo adorabile e nell'anima tua santissima, fino alla morte di croce. De, dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei tuoi patimenti, mentre ora medito l'ora quarta, dalle 8 alle 9 della sera, la cena eucaristica. E per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretta o ad applicarmi ai miei doveri o a dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei praticare. Intanto grazie ti rendo, o mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami all'unione con te, e per piacerti di più prendo i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella tua volontà e nel tuo amore. E stendendo le braccia per abbracciarti, poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Dolce amor mio, incontentabile sempre nel tuo amore per noi, vedo che mentre termina la cena legale, ti levi da tavola e insieme coi tuoi amati discepoli innalzi l'inno di ringraziamento al Padre per avervi dato il cibo, volendo riparare con ciò le mancanze di ringraziamento delle creature per i tanti mezzi che Dio ci dà per il sostentamento della vita corporale. Perciò, oh Gesù, in tutto ciò che tu fai, che tocchi e vedi, hai sempre le parole sul labbro. Grazie ti siamo rese, oh Padre. Anch'io, Gesù, unita a te, prendo le parole dalle tue labbra e sempre in tutto dirò grazie per me e per tutti, per continuare la riparazione, per le mancanze di ringraziamento. Gesù, lavi i piedi degli Apostoli. O mio Gesù, sembra che il tuo amore non abbia posa. Vedo che fai sedere di nuovo i tuoi amati discepoli. Prendi un catino di acqua, ti cingi di bianca tovaglia e ti prostri ai piedi degli Apostoli in atto così umile da attirare l'attenzione di tutto il cielo e farlo rimanere estatico. Gli stessi Apostoli rimangono quasi senza moto nel vederti prostrato ai loro piedi. Ma dimmi, amor mio, che vuoi? Che intendi con quest'atto così umile? Umiltà non mai vista e che mai si vedrà. Ah, figlia mia, voglio tutte le anime, e prostrato ai loro piedi come povero mendico, le chiedo, le importuno, e piangendo tramo insidia d'amore per averle. Voglio, prostrato ai loro piedi, con questo catino d'acqua mescolata con le mie lacrime, purificarle da qualunque imperfezione e prepararle a ricevere me nel sacramento. Mi sta tanto a cuore quest'atto di ricevermi nell'Eucaristia che non voglio affidare questo ufficio agli angeli e neppure alla mia cara mamma. Io stesso voglio purificarne anche le fibre più intime per disporle a ricevere il frutto del sacramento. E negli Apostoli intendevo preparare tutte le anime. Intendo riparare tutte le opere sante e l'amministrazione dei sacramenti, soprattutto fatta dai sacerdoti con spirito di superbia, vuote di spirito divino e di disinteresse. Ah, quante opere buone mi giungono, più per farmi disonore che per darmi onore, più per amareggiarmi che per compiacermi, più per darmi morte che per darmi vita. queste sono le offese che più mi contristano. Ah sì, figlia mia, numera tutte le offese più intime che mi si fanno e riparami con le mie stesse riparazioni. Consola il mio cuore amareggiato. O mio afflitto bene, faccio mia la tua vita ed insieme a te intendo ripararti tutte queste offese. Voglio entrare nei più intimi nascondigli del tuo cuore divino e riparare col tuo stesso cuore le offese più intime e segrete che ricevi dai tuoi più cari. Voglio, o mio Gesù, seguirti in tutto ed insieme con te voglio girare per tutte le anime che ti devono ricevere nell'Eucaristia ed entrare nei loro cuori. Insieme alle tue metto le mie mani per purificarle, o Gesù. Con queste tue lacrime ed acqua con cui lavasti i piedi degli apostoli, laviamo le anime che devono riceverti. Purifichiamo i loro cuori, infiammiamoli, scuotiamone la polvere di cui sono imbrattati, affinché ricevendoti tu possa trovare in loro le tue compiacenze anziché le tue amarezze. Ma, affettuoso mio bene, stai tutto intento a lavare i piedi degli apostoli. Ti guardo e vedo che un altro dolore trafigge il tuo cuore sacratissimo. Questi apostoli rappresentano tutti i futuri figli della Chiesa e ciascuno di loro la sede di tutti i mali che nella Chiesa dovranno esistere e quindi la sede di tutti i tuoi dolori. In chi le debolezze, in chi gli inganni, in questo le ipocrisie, in quello l'amore smudato agli interessi, in San Pietro le mancanze dei propositi e tutte le offese dei capi della Chiesa, in San Giovanni le offese dei tuoi più fidi, in Giuda gli apostati con tutta la serie dei gravi mali che da questi si commettono. Il tuo cuore è soffocato dal dolore e dall'amore, tanto che, non potendo reggere, ti sofferma i piedi di ciascun apostolo e dà in pianto e preghi e ripari ciascuna di queste offese ed impetri per tutti il rimedio opportuno. Mio Gesù, anch'io mi unisco a te, faccio mie le tue preghiere, le tue riparazioni e i tuoi rimedi opportuni per ciascun'anima. Voglio mescolare le mie lacrime alle tue affinché tu mai sia solo ma sempre mi abbia con te per dividere insieme le tue pene. Ma mentre ti inoltri, dolce amor mio, nel lavare i piedi degli apostoli, vedo che già sei a piedi di Giuda. Ti sento il respiro affannoso. Vedo che non solo piangi, ma singhiozzi. E mentre lavi quei piedi, te li baci, te li stringi al cuore. E non potendo parlare con la voce perché soffocata dal pianto, guardi con quegli occhi gonfi di lacrime e gli dici col cuore: figlio mio, dee ti prego con le voci delle lacrime, non andare all'inferno. Dammi la tua anima, che prostrato ai tuoi piedi ti chiedo. Di, che vuoi, che pretendi? Tutto ti darò, purché non ti perda. Dee, risparmia questo dolore a me, tuo Dio. E ritorna a stringerti quei piedi al tuo cuore, ma vedendo la durezza di Giuda, il tuo cuore è messo alle strette, il tuo amore ti soffoca e sei in atto di venir meno. Cuor mio e vita mia, permettimi che ti sostenga fra le mie braccia. Capisco che questi sono i tuoi stratagemmi amorosi che usi con ciascun peccatore ostinato. Dei ti prego, cuor mio, mentre ti compatisco e ti riparo le offese che ricevi delle anime che si ostinano a non volersi convertire, giriamo insieme la terra e dove stanno peccatori ostinati diamo loro le tue lacrime per ammollirli, i tuoi baci e le tue strette d'amore per incatenarli a te in modo da non poter sfuggire e così rinfrancarti del dolore della perdita di Giuda. istituzione della Santissima Eucaristia. Mio Gesù, gioia e delizia mia, vedo che il tuo amore corre, e rapidamente corre. Ti alzi, dolente come sei, e quasi corri all'altare, dove è preparato il pane e il vino per la consacrazione. Ti vedo, cuor mio, che prendi un aspetto tutto nuovo e non mai visto. La tua divina persona prende un aspetto tenero, amoroso, affettuoso. I tuoi occhi sfolgorano luce più che fossero soli. Il tuo volto roseo è splendente. Le tue labbra sono sorridenti e brucianti di amore. Le tue mani creatrici si mettono in atteggiamento di creare. Ti vedo, amor mio, tutto trasformato. La divinità pare come se traboccasse fuori dell'umanità. Cuor mio e vita mia, Gesù, questo tuo aspetto non mai visto chiama l'attenzione di tutti gli apostoli. Sono presi da un dolce incanto e non osano neppure fiatare. La dolce mamma corre in spirito ai piedi dell'altare a mirare i portenti del tuo amore. Gli angeli scendono dal cielo e si domandano tra loro: che c'è, che c'è? Sono vere follie, veri eccessi, un Dio che crea non il cielo o la terra, ma se stesso. E dove? Dentro la materia vilissima di poco pane e poco vino. Ma mentre sono tutti intorno a te, o amore insaziabile, vedo che prendi il pane fra le mani, lo offri al Padre e sento la tua voce dolcissima che dice: Padre Santo, grazie ti sia rese che sempre esaudisci il Figlio tuo. Padre Santo, concorri meco. Tu un giorno mi mandasti dal cielo in terra ad incarnarmi nel seno della mamma mia per venire a salvare i nostri figli. Ora permettimi che mi incarni in ciascun'ostia per continuare la loro salvezza ed essere vita di ciascuno dei miei figli. Vedi, o Padre, poche ore restano della mia vita. Chi avrà cuore di lasciare i miei figli orfani e soli? Molti sono i loro nemici, le tenebre, le passioni, le debolezze cui vanno soggetti. Chi li aiuterà? Deh, ti supplico che rimanga in ciascun'ostia per essere vita di ognuno e quindi mettere in fuga i nemici ed essere loro luce, forza, aiuto in tutto. Altrimenti, dove andranno? Chi li aiuterà? Le nostre opere sono eterne. Il mio amore è irresistibile. Non posso, né voglio, lasciare i miei figli. Il padre si intenerisce alla voce tenera ed affettuosa del figlio. Scende dal cielo e già sull'altare ed unito con lo Spirito Santo a concorrere col figlio. E Gesù, con voce sonora e commovente, pronunzia le parole della consacrazione e senza lasciare se stesso, crea se stesso in quel pane e vino. Poi comunichi i tuoi apostoli e credo che la nostra celeste mamma non restò priva dal riceverti. Ah Gesù, i cieli si inchinano e tutti ti inviano un atto di adorazione nel tuo nuovo stato di profondo annichilimento. Ma, o dolce Gesù, mentre il tuo amore resta contentato e soddisfatto, non avendo altro che fare, vedo, mio bene, su questo altare tutte le ostie consacrate che si perpetueranno fino alla fine dei secoli ed in ciascuna ostia schierata tutta la tua dolorosa passione, perché le creature, agli eccessi del tuo amore, ti preparano eccessi di ingratitudine e di enormi delitti. Ed io, cuore del mio cuore, voglio trovarmi sempre con te in ogni tabernacolo, in tutte le pisside e in ciascun'ostia consacrata che si troverà fino alla fine del mondo, ad emettere i miei atti di riparazione a seconda delle offese che ricevi. O Gesù, ti contemplo nell'ostia santa e come se ti vedessi nella tua adorabile persona, bacio la tua fronte maestosa, ma baciandoti sento la puntura delle tue spine, O mio Gesù, in quest'ostia santa, quante creature non ti risparmiano le spine. Esse si portano innanzi a te, e invece di mandarti l'omaggio dei loro buoni pensieri, ti mandano i loro pensieri cattivi, e tu di nuovo abbassi la testa come nella passione, e ricevi e togli le spine di questi pensieri cattivi. O mio amore, mi avvicino a te, insieme con te abbasso la testa anch'io, per dividere le tue pene. Metto tutti i miei pensieri nella tua mente, per respingere queste spine che tanto ti addolorano, ed ogni mio pensiero scorre in ogni tuo pensiero, per farti l'atto di riparazione per ogni pensiero cattivo, e così consolare la tua mesta mente. Gesù, mio bene, bacio i tuoi begli occhi, vedi il tuo sguardo amoroso rivolto a quelli che si portano alla tua presenza, ansioso di avere il ricambio dei loro sguardi d'amore. Ma quanti vengono innanzi a te, e invece di guardare e cercare te, guardano cose che li distraggono, e così privano te del gusto che provi nello scambio degli sguardi d'amore. Tu piangi, ed io baciandoti sento le mie labbra bagnate dalle tue lacrime. Mio Gesù, non piangere, voglio mettere i miei occhi nei tuoi per dividere insieme quelle tue pene e piangere con te, e volendo riparare tutti gli sguardi distratti delle creature, ti offri i miei sguardi sempre fissi in te. Gesù, mio amore, bacio le tue santissime orecchie, già ti vedo intento ad ascoltare ciò che vogliono da te le creature per consolarle, ma queste invece ti fanno giungere alle orecchie preghiere malamente recitate, piene di diffidenze, preghiere fatte per abito, ed il tuo dito in quest'ostia santa è molestato più che nella tua stessa passione. O mio Gesù, voglio prendere tutte le armonie del cielo e metterle nelle tue orecchie per ripararti, e voglio mettere le mie orecchie nelle tue, non solo per dividere insieme queste pene, ma per offrirti il mio atto continuo di riparazione e consolarti. Gesù, mia vita, bacio il tuo santissimo volto, lo vedo insanguinato, livido e gonfio. Le creature, o Gesù, vengono innanzi a quell'ostia santa, e con le loro posizioni indecenti e con i loro discorsi cattivi, invece di darti onore, sembra che ti mandino schiaffi e sputi, e tu, come nella passione, in tutta pace e pazienza li ricevi e tutto sopporti. O Gesù, voglio mettere il mio volto vicino al tuo, non solo per baciarti e ricevere gli insulti che ti vengono dalle tue creature, ma per dividere con te tutte le tue pene. E con le mie mani intendo accarezzarti, toglierti gli sputi e stringerti forte il mio cuore, e del mio essere fare tanti minutissimi brani e metterli innanzi a te, come tante anime che ti adorano, e tutti i miei movimenti cambiarli in continue prostrazioni per ripararti i disonori che ricevi da tutte le creature. Gesù mio, bacio la tua santissima bocca, vedo che nello scendere sacramentato nei cuori delle tue creature sei costretto a appoggiarti su molte lingue mordaci, impure, cattive. Oh, come ne resti amareggiato, ti senti come attossicare da queste lingue, e peggio quando scendi nei loro cuori. Oh Gesù, se fosse possibile, vorrei trovarmi nella bocca di ciascuna creatura per mutare in lodi tutte le offese che da esse ricevi. Affaticato mio bene, bacio la tua santissima testa, la vedo stanca, sfinita e tutta occupata nel tuo lavorio d'amore. Dimmi, che fai? E tu? Figlia mia, in quest'ostia lavoro domani a sera, formando catene d'amore. E come le anime vengono da me, io le incateno al mio cuore. ma sai tu che mi fanno essere? Molte a via di sforzi si svincolano e mettono le mie amorose catene in frantumi. E siccome queste catene sono legate al mio cuore, io ne resto torturato e vado in delirio. Esse poi, nello spezzare le mie catene, mandano a vuoto il mio lavorio, cercando le catene delle creature. E questo lo fanno anche alla mia presenza, servendosi di me per raggiungere i loro intenti. Ciò mi addolora tanto, che mi dà febbre violenta da farmi venir meno e delirare. Quanto ti compatisco, Gesù, il tuo amore è messo alle strette, ed io, per infrancarti delle offese che ricevi da queste anime, ti prego di incatenare il mio cuore con queste catene da esse spezzate, per poterti dare per loro il mio ricambio d'amore. Mio Gesù, mio frecciero divino, bacia il tuo petto, e tale tanto il fuoco che in esso contieni, che per dare un po' di sfogo alle tue fiamme e fare un po' di sosta nel tuo lavoro, ti metti a giocare con le anime che a te vengono, tirando loro frecce d'amore che escono dal tuo petto. Il tuo gioco è formare frecce, dardi, sette, e quando queste colpiscono le anime, tu vai in festa, ma molti, oh Gesù, te le respingono, mandandoti per ricambio frecce di freddezze, dardi di tiepidezze e sette di ingratitudine, e tu ne resti così afflitto da piangere amaramente. Oh Gesù, ecco il mio petto pronto a ricevere non solo le tue frecce destinate per me, ma anche quelle che ti respingono le altre anime. E così non più resterai sconfitto nel tuo gioco di amore. Così riparerò pure le freddezze, le tiepidezze e le ingratitudini che da esse ricevi. Oh Gesù, bacio la tua mano sinistra e intendo riparare tutti i tocchi illeciti o riprovevoli fatti alla tua presenza, e ti prego a tenermi sempre stretta al tuo cuore. Oh Gesù, bacio la tua mano destra e intendo riparare tutti i sacrilegi, specie le messe malamente celebrate. Quante volte, amor mio, tu sei costretto a scendere dal cielo in mani e petti indegni, e sebbene senti nausea in trovarti in quelle mani, l'amore ti costringe a rimanervi. Anzi, in certi tuoi ministri tu trovi i rinnovatori della tua passione, che coi loro enormi delitti e sacrileggi rinnovano il deicidio. Gesù, mi fa spavento a pensar ciò, ma purtroppo, come nella passione stavi nelle mani dei giudei, tu te ne stavi in quelle mani indegne, quale agnellino mansueto, aspettando di nuovo la tua morte e anche la loro conversione. Oh Gesù, quanto soffri! Tu vorresti una mano amante per liberarti da quelle mani sanguinarie. Oh Gesù, quando ti troverai in tali mani, ti prego di chiamarmi a te vicino, e per ripararti ti coprirò con la purità degli angeli, ti profumerò con le tue virtù per attutire la nausea che provo nel trovarti in quelle mani, ed il mio cuore te lo offrirò per scampo e rifugio. Mentre starai in me, io ti pregherò per i sacerdoti, acciò che tutti siano degni i tuoi ministri. Così sia. O Gesù, bacio il tuo piede sinistro e intendo ripararti per quelli che ti ricevono per abitudine e senza le dovute disposizioni. O Gesù, bacio il tuo piede destro e intendo riparare per quelli che ti ricevono per oltraggiarti. Dei, ti prego, quando ardiranno di fare ciò, di rinnovare il miracolo che operasti a Longino, e come lo risanasti e lo convertisti al tocco del sangue che sgorgò dal tuo cuore trapassato dalla sua lancia, così al tuo tocco sacramentale converti le offese in amore e gli offensori in amanti. Oh Gesù, bacio il tuo dolcissimo cuore nel quale si riversano tutte le offese, ed io di tutto intendo ripararti per darti per tutti un contraccambio d'amore e sempre insieme con te dividere le tue pene. O celeste freccero, se qualche offesa sfugge alla mia riparazione, ti prego di imprigionarmi nel tuo cuore e nella tua volontà, affinché tutto ripari. Pregherò la dolce mamma che mi tenga sempre insieme con lei, al fine di riparare tutto e per tutti. Ti baceremo insieme e facendoti riparo ti allontaneremo le onde delle amarezze che ricevi dalle creature. Deo Gesù, ricordati che anch'io sono una povera anima peccatrice. Rinchiudimi nel tuo cuore e con le catene del tuo amore non solo imprigionami, ma lega uno per uno i miei pensieri, gli affetti, i desideri. Incatena le mie mani ed i miei piedi al tuo cuore, perché io non abbia altre mani e altri piedi che i tuoi. Sicché, amor mio, il mio carcere sarà il tuo cuore, le mie catene saranno formate dall'amore, le tue fiamme saranno il mio cibo, il tuo respiro sarà il mio, i cancelli che mi impediranno d'uscire sarà la tua santissima volontà. E così non vedrò che fiamme, non toccherò che fuoco, che mentre mi daranno vita, mi daranno morte, come quella che subisci tu nell'ostia santa. Ti darò la mia vita, e così mentre io resterò imprigionato in te, tu resterai sprigionato in me. Non è questo il tuo intento nel carcerarti nell'ostia, per essere scarcerato dalle anime che ti ricevono, prendendo vita in loro? Ed ora, in segno d'amore, benedicimi. Dai il mistico bacio d'amore all'anima mia, mentre io mi rimango a te stretta e abbracciata. O dolce cuor mio, dopo che hai istituito il Santissimo Sacramento e hai visto le enormi ingratitudini ed offese delle creature, pure non indietreggi. E sebbene resti ferito e amareggiato, tutto vuoi affogare nell'immensità del tuo amore. Ti vedo, Gesù, che amministri te stesso ai tuoi apostoli e dopo soggiungi che ciò che hai fatto tu devono fare loro, dando loro la potestà di consacrare. E perciò le ordini sacerdoti ed istituisci altri sacramenti, sicché, o Gesù, a tutto ci pensi e tutto ripari. Le prediche fatte malmente, i sacramenti amministrati e ricevuti senza disposizione e perciò senza effetti, le vocazioni sbagliate dei sacerdoti da parte loro e da parte di chi li ordina, non usando tutti i mezzi per conoscere le vere vocazioni. Ah, niente ti sfugge, o Gesù, ed io intendo seguirti e ripararti tutte queste offese. Onde, dopo che hai dato adempimento a tutto, prendi i tuoi apostoli e ti incammini all'orto di Getsemani per dare principio alla tua dolorosa passione. Ti seguirò in tutto per tenerti fedele compagnia. Riflessioni e pratiche. Gesù è nascosto nell'ostia per dare vita a tutti. Nel suo nascondimento abbraccia tutti i secoli e dà luce a tutti. Così noi, nascondendoci in Lui, con le nostre preghiere e riparazioni, daremo luce e vita a tutti, ed anche agli stessi eretici ed infedeli, perché Gesù non esclude nessuno. Che fare in questo nascondimento? Per farci simili a Gesù Cristo, dobbiamo nascondere tutto in Lui, cioè pensieri, sguardi, parole, palpiti, affetti, desideri, passi ed opere, e fin le stesse preghiere nasconderle nelle preghiere di Gesù. E come l'amante Gesù nell'Eucaristia abbraccia tutti i secoli, così li abbracceremo insieme. E stretti a Lui, saremo pensiero di ogni mente, parola di ogni lingua, desiderio d'ogni cuore, passo d'ogni piede, opera d'ogni braccio. Così facendo, storneremo dal cuore di Gesù il male che vorrebbero fargli tutte le creature, cercando di sostituire a tutto questo male tutto il bene che ci sarà possibile di fare, e in tal modo pressare Gesù di dare a tutte le anime salvezza, santità, amore. La vita nostra, per corrispondere a quella di Gesù, deve essere tutta uniformata alla sua. L'anima deve, con l'intenzione, trovarsi in tutti i tabernacoli del mondo per fargli continua compagnia e dargli sollievo e riparazione continua, e con questa intenzione fare tutte le azioni della giornata. Il primo tabernacolo è in noi, nel nostro cuore. Bisogna quindi prestare grande attenzione a tutto ciò che il buon Gesù vuole fare in noi. Molte volte Gesù, stando nel nostro cuore, ci fa sentire il bisogno della preghiera. Ah, è Gesù che vuol pregare, ci vuole con Lui, quasi immedesimandosi con la nostra voce, con i nostri affetti, con tutto il nostro cuore, per fare che la nostra preghiera sia una sola con la sua. E così, per fare onore alla preghiera di Gesù, staremo attenti a prestargli tutto il nostro essere, in modo che l'amante Gesù innalzi al cielo la sua preghiera per parlare al Padre e per rinnovare nel mondo gli effetti della sua stessa preghiera. Bisogna stare attenti a tutti i nostri moti interni, perché il buon Gesù ora ci fa soffrire, ora ci vuole la preghiera, ora ci mette in uno stato d'animo, ora in un altro, per poter ripetere in noi la sua stessa vita. Supponiamo che Gesù ci metta nell'occasione di esercitare la pazienza. Egli riceve tali e tante offese dalle creature che si sente spinto a mettere mano ai flagelli per colpire le creature. Ed ecco che dà a noi l'occasione di esercitare la pazienza, e noi dobbiamo fargli onore sopportando tutto con pace, come lo sopporta Gesù. E la nostra pazienza gli strapperà di mano i flagelli che da lui attirano le altre creature, perché in noi egli eserciterà la stessa sua divina pazienza. E come della pazienza, così di tutte le altre virtù. L'amante Gesù nel sacramento esercita tutte le virtù, e noi da lui attingeremo la fortezza, la mansuetudine, la pazienza, la tolleranza, l'umiltà e l'ubbidienza. Il buon Gesù dà a noi le sue carni in cibo, e noi per alimento gli daremo l'amore, la volontà, i desideri, i pensieri, gli affetti. Così gareggeremo con l'amore di Gesù. Non faremo entrare nulla in noi che non sia Lui, sicché tutto ciò che faremo, tutto deve servire per alimento al nostro amato Gesù. Il pensiero nostro deve alimentare il pensiero divino, cioè pensare che Gesù è nascosto in noi e vuole l'alimento del nostro pensiero. Così pensando, santamente alimentiamo il pensiero divino. Egualmente il nostro sguardo deve alimentare lo sguardo divino, la parola, i palpiti, gli affetti, i desideri, i passi, le opere, tutto deve servire per alimentare Gesù. Alimentando in tal modo Gesù, dobbiamo mettere l'intenzione di alimentare in Gesù le creature. O dolce amore mio, tu in quest'ora transostanziasti te stesso nel pane e nel vino. De, fa, o Gesù, che tutto ciò che dico e faccio sia una continua consacrazione di te in me e nelle anime. Dolce mia vita, quando vieni in me, fa che ogni mio palpito, ogni desiderio, ogni affetto, pensiero, parola, possa sentire la potenza della consacrazione sacramentale, in modo che consacrato tutto il mio piccolo essere divenga tante ostie per poter dare te alle anime. O Gesù, dolce amore mio, sia io la tua piccola ostia per poter racchiudere in me, come ostia vivente, tutto te stesso. Preghiera di ringraziamento. Mio amabile Gesù, tu mi hai chiamato in quest'ora della tua passione a tenerti compagnia, ed io sono venuta. Mi parve di vederti angosciato e dolente, pregare, riparare e patire, e con le voci le più tenere ed eloquenti, perorare la salvezza delle anime. Ho cercato di seguirti in tutto e ora, dovendoti lasciare per le mie solite occupazioni, sento il dovere di dirti un grazie e un ti benedico. Sì, oh Gesù, grazie, ti ripeto, le mille e mille volte, e ti lodo e benedico per tutto ciò che hai fatto e patito per me e per tutti. Grazie e ti benedico per ogni goccia di sangue, per ogni tuo respiro, palpito, passo, parola, sguardo, e per ogni amarezza e offesa che hai sopportato. Per tutto, mio Gesù, intendo segnarti con un grazie e un ti benedico. Deo Gesù, fa che tutto il mio essere ti mandi un flusso continuo di ringraziamenti e benedizioni, in modo da attirare su di me e su di tutti il flusso delle tue grazie e benedizioni. Deo Gesù, stringimi al tuo cuore con le tue santissime mani e segna tutte le particelle del mio essere col tuo ti benedico, per fare che da me altro non esca che un inno continuo d'amore a te. Perciò mi lascio in te per seguirti in ciò che farai, anzi opererai tu stesso per me, ed io fin d'ora lascio i miei pensieri in te per difenderti dai tuoi nemici, il respiro per corteggio e compagnia, il palpito per dirti sempre ti amo e a rifarti dell'amore che non ti danno gli altri, le gocce del mio sangue a ripararti e a restituirti gli onori e la stima che ti tolgono i tuoi nemici con gli insulti, sputi e schiaffi, e tutto il mio essere per guardia. Dolce mio amore, sebbene debbo attendere alle mie occupazioni, resto nel tuo cuore, ho paura d'uscirne. Tu mi terrai in te, non è vero? I nostri palpiti si intenderanno a vicenda e si confonderanno insieme, in modo da darmi vita, amore, stretta unione inseparabile con te. Mio Gesù, se vedi che sto per sfuggirti, il tuo palpito si acceleri di più nel mio, le tue mani mi stringano più forte al tuo cuore, i tuoi occhi mi guardino e mi gettino setti di fuoco, affinché io, sentendoti, mi lasci subito tirare all'unione con te. De, mio Gesù, dammi il bacio del divino amore, abbracciami e benedicimi, io ti bacio nel dolcissimo tuo cuore e mi resto in te.